dei confini nella, in Inghilterra, in Gran Bretagna. How is the control border system in UK? So immigration detention centers were introduced in the 70s, but they really start to be used in the 90s more and more. Allora, il sistema dei detention center, appunto, delle prigioni per persone migranti viene istituito in Inghilterra negli anni 70, però vengono utilizzate molto di più negli anni 90. And detention in Britain is immigration detention is administrative, so it's not there is no judicial control and there is no time limit on detention. Il sistema il sistema è un sistema amministrativo, ossia non c'è un giudice che decide che cosa se quella persona può può andare in prigione o no, non c'è ma è direttamente, cioè puoi andare in prigione direttamente senza avere nessun appello. Dopodiché puoi però fare appello e cercare di avere il diritto di asilo. So the government says the reason behind that is they want to effect deportation, so when they want to deport people they put them in detention until they can't deport them so that they don't run away. Loro praticamente hanno questa cosa che in parte è abbastanza simile in tutti i paesi europei. Vengono appunto incarcerati, messi nelle gabbie fino alla deportazione. But there is evidence that people actually don't run away most of the time. And people are kept in detention even when the government can't deport them. Ci sono ovviamente delle prove che fanno vedere appunto che le persone comunque non scappano però vengono messe portate nelle prigioni. E ci sono anche delle what did you say after the evidence? I forgot it. There is evidence that people don't run away most of the time. Yeah. So that justification is not true. And people are kept even when there is no viable route of return. So when e molto molto spesso le persone vengono appunto imprigionate anche dopo anche se non ci sono evidenze e prove necessarie per farle restare in prigione. And most people in immigration detention centers are either rejected asylum seekers or visa overstayers or so-called foreign nationals, which are people who committed a criminal offense and then imprisoned, and after they finish their prison sentence they are kept in detention until they are deported as a second punishment. Allora, in genere ci sono nei detention center le persone sono ci sono persone che o hanno rifiutato l'asilo politico oppure hanno la visa, i documenti sono scaduti, o anche persone che hanno commesso dei crimini o comunque delle cose fuori le norme e vengono appunto deportati. Yeah. E deportate. And there is I think about 4,000 places in detention in 11 detention centers around the country. Ci sono più di 4.000 posti in detention center in tutto il paese. How many detention centers there are? There is 11 detention centers. Ci sono, ho chiesto appunto quanti prigioni ci sono e ci sono 11 prigioni, detention center. And 8 of them are run by private companies who are mostly big security multinationals like G4S, Serco and GEO. E 8 di queste prigioni sono sono gestite da privati che appunto siamo come per esempio G4S, Cisco e And when these things are run by the private sector that are motivated mainly by profit, there is e questo ovviamente quando sono quando le carceri sono gestite da privati sono sono motivate da interessi economici e quindi ovviamente da speculazioni sulle vite delle persone. So on top of the state repression, now there is market dynamics also involved, because the more people they detain, the more they get paid. E quindi ovviamente oltre alla gestione della migrazione c'è anche il mercato che motiva e che incrementa la detenzione, perché più persone sono detenute e più vengono ovviamente più i profitti vengono aumentati. And indeed there is evidence that since the privatization of detention centers, which was part of the privatization of prisons in general during the Thatcher government, e ovviamente ci sono delle prove che dal momento in cui le carceri, i detention center, sono stati privatizzati, che è stato comunque un momento in cui hanno privatizzato anche le carceri stesse in Inghilterra, che è stato nel momento della Thatcher. So there is evidence that the privatization of detention has led to the increased use of detention for migrants. E ovviamente si è visto come appunto c'è stato un aumento dell'incarcerazioni all'interno dei detention center, come anche ovviamente nelle carceri stesse. Yeah, and the other important development in recent years is the introduction of a new system called Fast Track. E un'altra cosa importante è stato appunto l'introduzione di un nuovo sistema, che è quello delle Fast Track, appunto delle Fast Track significa una situazione veloce, quindi And fast track means people from certain countries that the government thinks that cases from these countries are easy and straightforward and easy to deal with. They are put in detention straight away until their cases are processed. Questo sistema fa appunto è un sistema che agisce su su persone che vengono da determinati paesi. Il governo pensa che alcuni paesi sono molto facili nel processo di giudizio dell'asilo politico, quindi vengono direttamente messi nei detention center, nei CIE, e pronti per la deportazione. And the logic behind it is that these cases are straightforward, so they are dealt with very quickly, which is why it's called fast track. E quindi vengono chiamati appunto fast track perché vengono giudicati molto velocemente. Do you know which country, for example, are involved in this fast track? Yes, so they keep changing, but for example, Jamaica is one of them. Allora, ho chiesto quali sono, per esempio, i paesi che vengono giudicati come fast track, quindi come mi ha risposto che i paesi vengono ovviamente cambiano sempre a seconda poi dei movimenti migratori per esempio uno dei paesi è la Giamaica. Or male cases from Nigeria, for example. O per esempio casi di uomini, specialmente di uomini per quanto riguarda la Nigeria. And Nigeria is a good example because actually some of the cases are really complex. involving oil security and armed factions, and like especially in the Niger Delta. Per esempio quello della il caso della Nigeria, il caso del paese della Nigeria è un paese particolare perché in molti casi le situazioni sono complesse perché coinvolgono le multinazionali del petrolio, coinvolgono tutta una situazione di sfruttamento del delta del Niger. And human trafficking, but that's mostly about women's cases. E ovviamente di traffico di persone, che però interessa molto di più la situazione della prostituzione, del lavoro sessuale. And even though women are not Nigerian women are not dealt under fast track, when the Home Office caseworkers think of Nigeria in that way, they just don't deal with even the very complex Nigerian women's cases. They deal with them very quickly and don't really look into them. E anche in questo caso, comunque, molto spesso non, proprio perché la Nigeria è all'interno del sistema fast track, non vengono neanche affrontate molto molto bene la situazione delle donne che appunto, venendo dalla Nigeria, pensano ok, possiamo metterlo da parte, possiamo eliminare il giudizio stesso. Facciamo uno stacco musicale per ora e poi ritorniamo a breve. Comme l'hiver, et nous vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous, venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager. Et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé nos visas. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Avoir un bon métier, pouvoir voyager. Quand est-ce que vous apprenez liberté? On veut que nos familles ne manquent plus de. malencontre et battu nos forêts. Qu'est-ce qui nous reste quand on enlève vite? On se prépare au voyage et on se jette dans le vide. E quindi apriamo queste frontiere. Continuiamo a parlare di politiche delle frontiere, di come appunto l'Europa e tutti i governi europei reprimono le persone che cercano di entrare. In politiche istituzionali razziste, di violenza e di morte, come vedremo. Eh sì, perché appunto il sistema delle deportazioni, dopo il aver parlato del sistema dei detention center, che appunto abbiamo comunque delle similitudini con l'Italia, perché si cerca di unificare, di rendere simili tutte le politiche, seppur in maniera diversa, perché in Inghilterra non c'è un periodo di... Non c'è un tempo limitato per la detenzione, quindi le persone possono stare anche, cioè c'è stato un caso di 8 anni in detention center per la mancanza di documenti, che è una cosa, non perché appunto possa essere in nessun caso giustificato la carcerazione e l'annullamento, e quindi della persona stessa, ma appunto in Inghilterra non ci sono limiti, come anche appunto vengono incarcerati e vengono richiusi nelle gabbie i bambini, cosa che appunto non giustifica di nuovo l'incarcerazione ma dà semplicemente degli elementi in più alla brutalità di un sistema. Talking about the fact that there is no time limit for being in detention center. Actually, the EU now wants to introduce a maximum limit on detention, the length of detention in all EU countries. Some countries are objecting, and the proposed limit is 18 months. 18, which is significantly more. That is the limit in. Yeah. In Italy. Yeah. In realtà appunto lui diceva che la cosa che vogliono fare, che l'Europa vuole fare, è introdurre il limite di detenzione a 18 mesi, che è appunto mi sembra il limite che c'è tutto a oggi in Italia. Let's talk about the deportation machine. The UK government is dealing with it. Yeah. Okay. E adesso parleremo invece delle deportazioni, del sistema della macchina delle deportazioni, e dopodiché appunto cercheremo di fare una panoramica molto più focalizzata sulle azioni, perché ovviamente sia all'interno che dei detention center che fuori detention center le persone cercano di lottare contro queste politiche. So until a few years ago all deportations were individual. So when the Home Office case workers decided to deport someone, they will arrange with a normal commercial airline and book a seat through a travel agency called Carlson Wagonlit, and book a seat on that flight and deport that person accompanied by 2 security guards. Fino a qualche tempo fa le deportazioni venivano effettuate con le singole persone, quindi la singola persona veniva deportata, veniva preso un aereo o di una linea privata, veniva comprato un biglietto da una linea privata, e venivano anche veniva accompagnato con due guardie. And now? So there is two important points first about that system. One, it's all privatized. So the travel agency that books the flights and the security guards are provided by security companies. Now the company is Reliance that has that contract. And the commercial airlines are also private. So they are all making money from this deportation system. E ovviamente nel sistema delle deportazioni dobbiamo pensare a questo, che sia le guardie che accompagnano la persona sono di una compagnia privata, che le linee degli aerei sono privati, quindi c'è un sistema di economia e di corporation sotto che dà profitti a società private. And that's why they have been targeted by campaigns and actions. E queste molte di questa società, di compagnie private sono state appunto hanno avuto delle proteste, si sono organizzate delle proteste e delle azioni contro. Which, so, for example, there has been a few protest and actions against the travel agency that books the flights, Carlson Magunlet. Per esempio, ci sono state varie azioni contro l'agenzia turistica, l'agenzia che organizzava i voli. And there's been a campaign against the coach companies that are contracted to take detainees from the detention center to the airport. E c'è anche una campagna contro l'agenzia degli autobus che porta le persone dai detention center agli aeroporti. And also online petitions and campaigns against the airlines, commercial airlines that are carrying deportees to try and stop them from doing so. Online petitions against the airlines. E ovviamente ci sono anche una campagna di sensibilizzazione online per delle petizioni, eccetera, ovviamente delle proteste di fronte a queste compagnie. And some of them have been successful in stopping the airlines. Like the airlines would say, okay, we're not taking this person on board. Molte di queste campagne in Inghilterra hanno avuto un successo, perché molte delle compagnie, per esempio, alcune compagnie aeree hanno detto hanno fermato e non continuato appunto a lavorare per il sistema delle deportazioni. One example is Air Italy actually, which had a contract with the UK government to carry deportees on board, and after which one? Air Italy. Una delle compagnie è stata proprio la Air Italy, che è una compagnia aerea che ha. And a few years ago there was a campaign against them and they stopped doing the. Qualche anno fa c'è stata una campagna contro questa compagnia aerea e hanno fermato appunto il contratto, hanno stoppato il contratto e non continuato a lavorare con il sistema delle deportazioni. And another common tactic that activists use to try and stop someone's deportation is go to the airport and talk to the passengers or leaflet the cabin crew and the passengers to try to protest to the pilots so that they refuse taking that person on board. C'è qualcuno che mi disturba. Yeah. No. E ovviamente ritorniamo a parlare di deportazioni, che mi sono distratta. Lui diceva appunto che oltre a questo, un'altra cosa che si fa, che si continua a fare, è parlare all'interno appunto delle deportazioni individuali, è di andare negli aeroporti e fare volantinaggio con i passeggeri che andranno poi a volare con le persone che stanno subendo la deportazione, e dire loro che si devono opporre a stare insieme a volare con una persona deportata, perché appunto protestando loro possono fermare, possono intercedere con la deportazione. And more importantly, I think, is migrants themselves protesting on board the flight or at the airport, shouting or refusing to sit, refusing to collaborate, and then the pilots have the right to take them off the flight because they are distressed. Altra cosa importante che ovviamente poi dipende dalle persone che stanno subendo la deportazione, è che le stesse persone possono fare in modo che venga interrotta la deportazione, ossia come? Cercando di fare più casino possibile all'interno del volo, e fare in modo che il comandante del volo dica è pericoloso volare con una persona che è troppo aggressiva o che non è in sé. And these successful interventions, either by migrants themselves or by activists supporting them, have led to two important developments. E da queste due forme di lotta contro la deportazione hanno sviluppato altre forme di lotta. And the first development is the introduction of charter flights for deportations. In realtà stavo dicendo un'altra cosa. Queste forme di deportazione si sono sviluppate in altri modi. Le forme di deportazione che il governo organizza. Una è appunto il charter flight, ossia proprio perché le lotte contro la deportazione erano abbastanza avevano successo, il governo inglese ha pensato ovviamente di fare in modo di mettere insieme le persone, di organizzare charter fly, ossia un aereo intero di persone che vengono deportate. So they hire a whole plane. Quindi affittano un intero aereo and fill it with deportees, 60 to 80 people. E cercano di riempirlo dai 60 alle 80 persone. And there is no normal passengers on board. Non ci sono passeggeri che nel volo che non hanno appunto, che non stanno subendo una deportazione. And they even use a special entrance, not the same. E hanno anche delle entrate speciali per entrare appunto nel volo. So it's away from the public eye. And they can use more violence and try to restrain people. E ovviamente appunto sono dei voli che vengono che sono completamente isolati, quindi possono utilizzare violenza come in che modo vogliono. So the usual tactics of making a fuss or shouting or leafleting passengers don't work anymore. E quindi tutte le forme di resistenza che si erano utilizzate prima, il volantinaggio con i passeggeri oppure la resistenza all'interno del volo non hanno più nessun effetto. And the government has actually admitted that when they introduced the charter flights in 2001. The main reason was the successful attempts to stop deportations. Il governo ha ha dichiarato esplicitamente che appunto l'introduzione nel 2001 dei charter flight erano stati introdotti proprio perché c'era dal successo delle resistenze che si erano attuate precedentemente. And although the government still uses commercial flights, they use more and more charter flights for countries where they deport people most, so Nigeria, Afghanistan, Iraq, and Jamaica, Sri Lanka now. Ma comunque sia vengono utilizzate i voli commerciali, i voli normali, soprattutto per quelle deportazioni, per le deportazioni in paesi che hanno una maggiore deportazione, come per esempio l'Afghanistan, la Nigeria, la Giamaica e lo Sri Lanka in questo momento. Yeah. And with the change of the system, the activist tactics to try and stop these deportations have also changed. E appunto da questo ovviamente anche le tattiche degli attivisti di coloro che lottano contro le deportazioni sono cambiate. So in the UK, the main tactic that activists have used in the past to try and stop this deportation has been blockades. Adesso in Gran Bretagna ci sono appunto la prima strategia che si utilizza è bloccare le entrate dei detention center. So mainly at the entrance of detention centers to try to prevent the coaches, buses from leaving the detention center to the airport. E quindi appunto si cerca di creare uno scudo umano di fermare l'autobus che sta uscendo dal detention yeah. center. So people have tried to block the road using different ways like D-locks, belt bike D-locks or una delle cose che si fa è appunto si cerca di legarsi e di fare in modo di avere una situazione in cui non ci si può spostare, e quindi si utilizzano delle cose di cemento in cui ci si lega e si richiede tantissimo tempo per fare in modo di liberarsi, e questo lo deve fare ovviamente la polizia, che deve chiamare una parte speciale della polizia, e ovviamente si perde tempo e si ha anche il tempo però di fare appello. Yeah. And it usually takes the police 5-6-10 hours to cut the people and arrest them and clear the road. E quindi succede appunto che la polizia ha bisogno sempre di 5, 6, 7, 8 ore prima di liberare l'entrata. But because charter flights are flexible, they don't go through the usual timetable at airports, they eventually leave even if they are delayed by several hours. Però il problema è appunto che charter flights hanno una flessibilità maggiore di un volo di linea, e succede appunto che possono volare anche dopo 7 ore di ritardo. So even after all these tens of actions like this, we haven't actually managed to stop one flight, we've only managed to delay them by a few hours. E appunto una cosa importante è che non abbiamo ancora fermato un charter flight al momento, ma abbiamo soltanto portato il volo con estremo ritardo. But it was quite successful. So, for example, can you talk about the last action? Yeah, I was going to say, even though they are not success as such in terms of stopping the whole flight, but they usually manage to buy some time for the solicitors acting on behalf of the deportees to apply for last minute injunctions at the High Court, and often a few people will get off taking back to detention center. E infatti succede questo, che molto spesso il fatto che si ha questo enorme ritardo, si ha la possibilità da parte degli avvocati di fare appello nuovamente, e molte persone poi riescono ad avere confermato l'asilo politico. So last month there was a charter flight to Sri Lanka. Lo scorso mese c'è stato un charter flight, un volo charter per lo Sri Lanka. And there is evidence that, and most of them are Tamils. E molti di loro erano Tamils. And there is evidence that members of the Tamil community, or especially the people associated with leftist groups, arrested and tortured on arrival by the Sri Lankan government. E ci sono appunto delle prove per cui molte delle persone dello Sri Lanka che fanno parte del gruppo tamile e che dei gruppi di sinistra sono torturati all'arrivo dalle deportazioni, perché appunto scappano per persecuzioni politiche. So for the third or fourth time this time there was a blockade to try to stop the bus from leaving the detention center, and there was a lot of media attention around it. E per c'è stato appunto un blocco per fermare l'autobus che stava deportando le persone, con una persona. So this time, instead of a blockade, one person got under the bus and locked himself by the neck with a bike D-lock to the coach. So a differenza delle altre volte, che appunto le persone si erano legate, si erano bloccate sulla strada, questa volta una persona si è legata sotto il veicolo, sotto l'autobus, con una catena della bicicletta al collo. E si è ritardato a many hours of delay. I think about 5 hours until the police cutting team came and cut the D-lock in a very safe way, because it could be very dangerous. E ovviamente questa parte si è dovuta aspettare un esperto che venisse per tagliare la parte della catena al collo, perché era una parte molto delicata, e ci sono state più di 5 ore di ritardo. E in those 5 hours the solicitors acting on people's behalf went to the High Court and managed to release get High Court last minute injunctions for 25 people, because there was evidence of torture, that if they are deported they will be tortured and arrested by the Sri Lankan government. Per questo ritardo 25 persone sono state salvate, hanno avuto il tempo gli avvocati di fare appello e di mostrare le prove che persone che vengono deportate sono poi torturate all'arrivo nel paese di provenienza, che appunto in questo caso è lo Sri Lanka. And the second development, I was saying there have been two sì. main developments because of the successful resistance by migrants and activists at airports. The second development is the use of increasingly more violent restraint tactics. Il secondo sviluppo, appunto, dal successo delle forme di resistenza che ci sono state contro le deportazioni, è il modo più violento che usano le guardie per fermare le persone. And there has been many reports of deportees, people being deported, being subjected to being beaten up or. E ci sono infatti diversi esempi di persone che raccontano di come le guardie private menano le persone deportate. Abused and bruised and injured by the private security guards accompanying them. E vengono abusate in diversi modi dalle guardie private. To try and shut them up so that other passengers che vengono ovviamente vengono cercate di mettere in silenzio, vengono legate e vengono torturate in diversi modi. And a good example of this is the case of Jimmy Mubenga. E questo ovviamente è uno dei casi che più eclatanti è stato quello di Jimmy Mubenga. Who died in October 2010. Che è morto nell'ottobre del 2010. After three security guards from G4S, who at the time still had the contract for detainee escorts. Che a quel tempo hanno ucciso Jimmy Mubenga da tre guardie che avevano un contratto con la G4S, che è questa compagnia che appunto ha molto potere nelle deportazioni e che ha molto potere economico, perché so he was shouting and asking for help and stava urlando e chiedendo aiuto alle tre guardie. And the three guards tried to restrain him using a very dangerous tactic known as carpet karaoke, which G4S guards developed. Che questa cosa non la so, ma dice che appunto lui stava chiedendo aiuto loro per metterlo in silenzio, per non farlo urlare, per reprimere quello che stavano facendo. Hanno utilizzato questa tattica. How does this It's called tactic? Carpet karaoke. Carpet karaoke, and it's basically holding their heads down against the seat so that they can't shout. Che è praticamente questa tattica per cui gli viene tenuta la testa in basso per non farlo urlare. Yeah, and since then, because there has been an investigation, 2 years long investigation, and some G4S staff. Submitted secret evidence that the G4S management and the Home Office have been told many times by the company's own staff that this technique is very, very dangerous and it's not authorized, but the government has been turning a blind eye to it and the company management. They're still doing that? Yeah. I'll talk about the outcome of the case. No, we need to finish it. E lui dice che appunto questa tecnica, che appunto di tenere la testa in basso, è una tecnica molto pericolosa, che appunto ha portato alla morte di Jimmy Mubenga, e che è stato in diverse occasioni ripetuto e cercato di spingere sia il governo che la G4S di non utilizzare queste tecniche così pericolose, ma sono tuttora ad oggi delle tecniche che vengono utilizzate dalle guardie private. So after 18 months of investigations, in July the Crown Prosecution Service, the prosecution, decided to not charge the company or the guards. Dopo 18 mesi di investigazioni, il giudice ha deciso di non fare nulla contro la G4S. And they are saying there are conflicting witness accounts, even though there were witnesses from the passengers who contacted the guardian and told the whole story and said that the guards were using excessive force and the guy was clearly shouting, Jim Mubenga was shouting, I am about to die, I'm going to die, in help, help. Oh my God. Dice che appunto ci sono diversi testimoni che appunto il giudice non ha preso assolutamente in considerazione, diversi testimoni che hanno contattato giornali come il Guardian dicendo che Jimmy Mubenga chiedeva aiuto e diceva che stava per morire, e ci sono appunto persone che hanno cercato di far uscire fuori la verità, ma questa verità sembra totalmente e ulteriormente negata. So we think this was a political decision to tell private security companies that they can use as much violence as they want and get away. E questo ovviamente è una decisione politica da parte del governo dichiara come il governo stesso supporti la violenza delle guardie private e dia supporto a questo tipo di violenza. And give migrants a message that if you resist you will be. E dare un chiaro messaggio a tutte le persone migranti che se tu resisti verrà ovviamente represso nel modo più crudele. And actually the second year anniversary is this Friday. The Friday coming, and we have called for a day of action, and there are planned demonstrations and actions, especially in London, against the Crown Prosecution Service and G4S. E questo venerdì, che è il 13, ci sarà appunto l'anniversario della morte di Jimmy Mubank. Ci saranno manifestazioni in UK, in Inghilterra, ma specialmente a Londra, e ci saranno ovviamente delle manifestazioni contro la G4S che And the main demand is that G4S and the three guards should be brought to justice and that no one should face this fate. E ovviamente la prima cosa che si chiede è che le tre guardie e la G4S vengano portate di fronte ad un giudice, il che significa che è appunto una situazione politica. Il governo deve riconoscere che si usa violenza e che questa violenza può portare morte, e che non solo nel sistema delle deportazioni, ma nel sistema del detention center, nel sistema in cui le persone cercano di arrivare qui. Morte e violenza sono il primo elemento di istituzione di razzismo istituzionale del regime di controllo. Yeah, but also to highlight that this is not an isolated, it's a political decision, it's not an isolated incident and the. Questo ovviamente è una decisione politica, non è soltanto un caso isolato, quello di Jimmy Mubank. And it's just part of the violence of the general deportation and detention regime or the border regime. E ovviamente è quello, la violenza, quello che avevo detto anche prima, non è soltanto una cosa isolata, ma è una cosa chiaramente che caratterizza il sistema delle deportazioni e del detention center. Domani sera parleremo della G4S, della campagna che si sta organizzando, del modo in cui appunto la G4S è coinvolta nel sistema carcerario, non solo di quello europeo, dei detention center, delle deportazioni, ma anche del sistema di apartheid che c'è in Palestina. E con questo vi lasciamo, perché c'è il GR ovviamente, e vi lasciamo con una canzone che potrebbe che è un po', cioè cerchiamo di dare un po' di input anche alla città di Roma per continuare la lotta contro i nocie, contro il razzismo e contro appunto la costruzione di questa fortezza Europa che produce soltanto morte e violenza.